sapere che ormai non sei qui con me mi rende mediamente pazzo. Poi penso a un pazzo e lo dipingo sulla mia tela, vedo me. Sapere che ormai non sei qui con me mi rende mediamente pazzo ed immediatamente fingo stare bene senza te. Non sei più con me, ma forse questo non essere con me ti rende come gli altri, scontati, fermi, persi dove non sei, questo ed altro. Tu non avevi nessun dubbio, io sì l'ho trovato. Piangere sulle mie gambe non ti porterà mai a nulla. Se puoi conquistarle, avere un briciolo di mente, sì, per dedicarlo all'Alessandro che rincorri, ma stai ad aspettarlo. Sapere che ormai non sei qui con me mi rende mediamente pazzo. Poi penso a un pazzo e lo dipingo sulla mia tela, vedo me. Sapere che ormai non sei qui con me pazzo mi rende ma un secondo. Io solamente ora mi accorgo che a rendermi pazzo eri tu. Aspettavo.